Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al centro sempre la crisi della politica, il tunnel della politica in attesa, ma non mi sembra che vi siano, ve lo ha appena raccontato anche il nostro GR, che vi siano schiarimenti in vista, anzi né chiarimenti. Anzi, Renzi che dice nessun baratto, sfidiamo Grillo, Grillo che accusa il PD di fare campagna acquisti sui suoi eletti, deputati e soprattutto senatori, e il PDL alla finestra, e anche diciamo che reagisce molto all'inchiesta giudiziaria. Mi sembra che la situazione si sia tutt'altro che sbloccata. Detto questo, il prossimo 15 marzo c'è un Consiglio europeo importantissimo a Bruxelles, ci deve andare un Presidente del Consiglio. È chiaro che se non ci sarà un governo ci dovrà andare il Presidente del Consiglio uscente Monti, ma è altrettanto chiaro che, lo dico con massimo rispetto per Monti, ci mancherebbe che essere rappresentati da Monti dopo lo scarso risultato elettorale che ha avuto e come Presidente del Consiglio uscente sarebbe un punto di debolezza per l'Italia, a maggior ragione quando, come dichiarato oggi da Bersani nell'intervista che ha rilasciato Repubblica, il leader del PD è quello che in questo momento si è preso l'incarico di cercare i punti di contatto per formare un nuovo governo. Dice voglio che il prossimo governo ponga una questione dirimente di cui ho parlato al telefono con Hollande. L'austerità da sola ci porta al disastro. In sede europea tutti devono mettersi in testa che il rientro dal debito e dal deficit è un tema che va spostato nel medio periodo. Ora c'è un'altra urgenza assoluta, il lavoro. E poi il secondo tema è quello sociale, il disagio è troppo forte, i comuni devono poter aprire sportelli di sostegno, bisogna sbloccare subito i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese e introdurre sistemi di ammortizzatori sociali. Poi il terzo punto, dimezzare il numero dei parlamentari, abbattere gli stipendi a livello di quello dei sindaci e varare leggi che regolano la vita dei partiti, non solo per i finanziamenti. Mi sarebbe piaciuto, lo dico con massimo rispetto perché insomma, la campagna elettorale l'ho seguita anch'io, che questi temi fossero stati posti con la stessa forza anche durante la campagna elettorale. Evidentemente nessuno nasce imparato e la lezione che è arrivata dal voto fa capire anche al leader del PD che battere sul tema di un'austerità europea a trazione tedesca che ci sta portando a un disastro, adesso vi racconterò anche perché, forse era un tema da cavalcare con maggior forza, mettiamola così. Non voglio tornare sulla polemica che ho avuto con il responsabile economico del PD Fassina due giorni fa in diretta. Sul fronte quantomeno della comunicazione, nessuno dice che il PD non ci pensasse anche prima, però sulla comunicazione si è sentito molto molto poco, molta prudenza su questi temi. Va bene, meglio tardi che mai, mettiamola così. Per quello che riguarda invece dove ci sta portando questa austerità fine a se stessa, come la chiamo io, non perché l'austerità faccia male, ma ripeto, un ragazzo non gli puoi solo dire studia e non andare in vacanza, perché questo qua prima o poi molla la scuola. Occorre dare degli obiettivi e quindi chiedere ai paesi i sacrifici, però dando anche politiche di sostegno. E beh, insomma, il dato di oggi sulla disoccupazione la dice lunga, più di tanti commenti, è record di disoccupazione giovanile in Spagna, Italia e Grecia. Il dato di gennaio, per cui freschissimo, 38,7% dei giovani sono senza lavoro in Italia, è il paese più colpito dopo la Spagna, dove il 55%, quasi il 56% dei giovani non hanno un lavoro, e la Grecia, dove siamo al 60%. Pensate che in Italia un anno fa era il 32, a gennaio del 2012 era il 32%, quindi 6 punti e mezzo in più in un anno di disoccupazione giovanile, 6 punti e mezzo in più. Potremmo sommarli ai 620.000 licenziamenti non disoccupati, licenziamenti che si sono registrati nel 2012, dato Istat di inizio settimana, se non ricordo male di lunedì, e si capisce quale sia il problema economico-sociale dell'Europa. Che non è solo il deficit e non è l'inflazione, lo capiscono anche a Berlino, è la disoccupazione. Questi sono dati, non sono commentabili, non sono diciamo opinioni, sono dati, ok? Faccio anche notare che in Francia la disoccupazione giovanile è al 27%, quindi molto alta pure lì. In Olanda e in Germania, in Olanda è al 10%, in Germania all'8%, quindi per la Germania non è un tema, ne rendo conto, ma non è che l'Europa può solo essere concentrata sui bisogni tedeschi. Ancora, per quello che riguarda, e tant'è che il Presidente della Repubblica Napolitano da Berlino dice: in un'Unione Europea che ha abbracciato i valori di un'economia sociale di mercato non si può non lanciare l'allarme per il configurarsi in Europa di una grave questione sociale. E quindi lo ha detto appunto Napolitano in una lecture all'Università Humboldt di Berlino. Il tema che alcuni di voi pongono, cosa vuol dire deficit buono, deficit cattivo, è emerso ieri dagli vari interventi. Beh, vuol dire semplicemente che se tu crei deficit e quindi aumenti il debito perché sprechi, come raccontiamo ogni giorno, soldi pubblici per corruzione, per clientelismo, per i costi della politica, perché non sai fare i progetti, perché non sai usare i soldi europei, perché non sai gestire la macchina pubblica, quello è deficit cattivo. Se tu invece usi i soldi di uno Stato per abbassare per esempio le tasse in busta paga, fare opere infrastrutturali che ti rendono più competitivo, fare corsi di formazione e creare anche un po' di ammortizzatori sociali, quello è un deficit buono perché comunque genera economia, dovrebbe far crescere il PIL e quindi in sostanza migliorare il rapporto deficit-PIL. Il deficit non è tutto uguale, un euro pagato in consulenze inutili di una regione o del Parlamento non è uguale a un euro speso per costruire un ponte, rimettere a posto un asilo, fare migliorare l'università o a maggior ragione ridurre la tassazione in busta paga. Una è una moneta buona, l'altra è una moneta cattiva, ma se andiamo avanti così a considerarli uguali, la moneta cattiva scaccerà sempre quella buona. Notizie in breve. La stessa fotografia, in questo caso sul 2012, la scatta oggi l'Istat, perché il dato finale è un PIL che è calato del 2,4%. Siamo scesi come valore del PIL in termini reali a quello che avevamo nel 2000. I consumi hanno fatto meno 4%, la spesa delle famiglie meno 4,5%, gli investimenti fissi sono crollati dell'8%. L'unica componente che ci ha salvato, ne parleremo anche dopo, è l'export, più 2,3%. Le importazioni sono calate bruscamente, perché consumiamo meno, meno 7,7%. Il debito pubblico va a record e questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per i rigoristi, per le vestali dell'austerità a ogni costo, perché se continua a diminuire il PIL, tu puoi tagliare quanto vuoi, ma il rapporto debito-PIL crescerà, perché il denominatore si va riducendo e infatti il debito va al 127% del PIL, debito record, 127% del PIL, nonostante le tasse e i tagli. Ancora, per quello che riguarda l'avanzo primario, ossia l'indebitamento netto, cioè l'indebitamento dello Stato al netto della spesa per interessi, siamo al 2,5%, e questo è in miglioramento. L'avanzo primario va riconosciuto al governo Monti rispetto all'1,2% del 2011, quindi il saldo primario prima di pagare gli interessi è pari a quasi 40 miliardi di euro, ma la pressione fiscale complessiva è salita al 44% contro il 42,5% del 2011. Non si era mai registrato dal 1990 un dato, una pressione fiscale così alta in rapporto al PIL. Dico 1990 perché da lì abbiamo l'inizio delle serie storiche, magari le avessimo da prima sarebbe dagli anni 80. E poi attenzione, i redditi da lavoro dipendente sono diminuiti del 2,3%, quindi, ma le spese della pubblica amministrazione sono aumentate dello 0,6%, il 51,2% del PIL, a dimostrare che i tagli e le tasse si sono scaricati, ma non lo dico io, lo dice l'Istat oggi nel rapporto, tutti sul settore privato, perché il settore pubblico non ha tagliato nulla, al di là di bondi, della spending review. Se aumenta la spesa della pubblica amministrazione dello 0,6% e va al 51,2% dell'intero PIL, quindi siamo intorno ai 1000 miliardi di euro, il PIL vale quasi 2000 miliardi di euro, no, il dato è semplice. Tutt'altro scenario, lo ricordiamo ogni giorno, ma anche questi sono dati. In Germania, dove la disoccupazione non rappresenta un problema, ma soprattutto le vendite al dettaglio, quindi un indicatore importante per capire come vanno i consumi tedeschi, hanno segnato il livello più alto dal 2012, dal 2006, scusatemi, da 6 anni a questa parte. È la crescita più forte dal dicembre 2006, il più 3,1% registrato dall'Istat tedesco oggi sulle vendite al dettaglio riferite a gennaio. E a dimostrazione che l'Europa è complessivamente infrenata c'è anche il dato dell'inflazione a livello europeo, scende all'1,8%. Anche in Italia su base annua è scesa all'1,9%, è il quinto calo in Italia consecutivo dell'aumento dei prezzi al consumo, dell'inflazione. Vuol dire che l'Europa consuma sempre meno, l'inflazione non è un problema, nonostante sia l'unico mandato ufficiale della Banca Centrale Europea su modello Bundesbank, cioè tenere sotto controllo i prezzi. 349-238-6666 per i vostri SMS. E la pagina di Focus Economia su Facebook, non ho voglia di rispondere oggi a chi dice lei ormai è accecato dal suo odio per la Germania. No, guardi, io sono accecato dai dati tutti in peggioramento che continuiamo a registrare da mesi nonostante le politiche di austerità, e deve ancora entrare in vigore il Fiscal Compact, Dicevo, 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Facebook per quello che riguarda invece Focus Economia, per chi vuole scrivere lì. Visto che secondo noi si può da un lato criticare le spese improduttive, gli sprechi del paese, dall'altro chiedere che l'Europa abbia politiche anticicliche, politiche di sostegno all'economia, non sono in antitesi le due cose, noi, così come abbiamo criticato per la millesima volta la politica economica tedesca e il suo condizionamento all'intera politica economica europea, ricordiamo ancora una volta invece i compiti che dobbiamo fare a casa noi, cioè gli sprechi della nostra pubblica amministrazione in senso lato. Abbassare tutte più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drag e più. Non c'è solo il Sud, ci mancherebbe, in questa nostra rubrica che sta diventando un appuntamento, ahimè, quotidiano. Allora, 10.000 euro al mese per distribuire volantini, non male come lavoro in un periodo di disoccupazione che abbiamo appena ricordato. Li percepiva Corrado Paroli, genero dell'ex capogruppo leghista in consiglio regionale della Lombardia, Stefano Galli, già noto e già finito alla luce dei riflettori, sotto i riflettori, per aver messo in nota spese i 6.000 euro del banchetto nuziale della figlia. Poi ha detto: ma non me ne ero accorto, non avevo capito. Vabbè. Perché dico questo? Perché il GIP Chiara Valori spiega che Paroli avrebbe stipulato con l'ufficio di presidenza un semplice co-co-co, una collaborazione invero mai eseguita, dice il GIP, grazie alla quale è stato conseguito un ingiusto profitto. Nessuna verifica, infatti, fu fatta sui titoli, sui compiti del collaboratore, nonostante 10.000 euro al mese, e cioè netti praticamente 7.280 euro netti al mese tra novembre 2009 e febbraio 2010, a cui si aggiungono anche 14.500 euro di compenso straordinario e 12.600 euro per il febbraio 2010. E poi i soldi diventano 10.000 euro dal febbraio 2012 fino alla scadenza del contratto. E poi ancora un compenso straordinario di 20.000 euro. nel dicembre 2012. In totale sono 196.000 euro lordi per apparentemente distribuire volantini, ma ripeto, il GIP dice che non si capisce quale fosse l'attività che dovesse svolgere questo collaboratore. Il GIP, ricordo, ha già fatto sequestrare 3 appartamenti all'ex capogruppo leghista in Regione Lombardia, Stefano Galli. E poi, vi ricordate quando il vento soffiava contro la casta e l'ufficio di presidenza della Camera emanava comunicati sui risparmi, sui tagli? La Camera ha tagliato 150 milioni di euro. Boh, tutto vero, ma a noi risulta una cosa un po' diversa. Prima di consegnare il testimone, lo stesso ufficio di presidenza, e quindi Fini, sta preparando una delibera per l'ultima riunione, quella del prossimo 5 marzo, in cui verranno deliberate 30 assunzioni a tempo indeterminato. 30 assunti. Magari è un modo in cui la politica, in questo caso Montecitorio, cerca di risolvere il problema della disoccupazione giovanile. I contratti vanno a proteggere i collaboratori che hanno lavorato per 18 componenti dell'ufficio di presidenza. 30 posti ancora da spartire, tutti a chiamata. La chiamata va resa, a questo punto va sanata con una sanatoria che costerà 3 milioni di euro l'anno. I 30 assunti verranno inseriti nell'organico a disposizione dei prossimi gruppi. La retribuzione come dirigente, che vuol dire circa 100.000 euro l'anno in media per ciascuno dei 30. Complimenti. E un'ultima notizia invece che riguarda il mondo della finanza. Non è che non ci siamo dimenticati delle banche d'affari. Ieri Citigroup si è beccata un nostro gufo. Perché lo dico? Perché qualcuno ricorda Royal Bank of Scotland, che travolta dalla crisi finanziaria fu la prima banca britannica di quelle dimensioni a dover essere nazionalizzata. Cioè lo Stato comprò l'80% di Royal Bank of Scotland, che era un colosso bancario in Gran Bretagna, perché era completamente saltata per aria per via delle esposizioni sui derivati, su strumenti ad alto rischio. Bene, gli inglesi si sono salvati Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland ha chiuso il 2012 con una perdita pari a 6 miliardi e 900 milioni di euro. Nonostante questo, e nonostante l'amministratore delegato Stephen Hester dica: davanti a noi c'è ancora un anno turbolento, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, sì, vabbè. Ma la cosa importante è che forse, avendo intravisto la luce in fondo al tunnel, hanno deciso di distribuire 607 milioni di sterline ai dirigenti e allo staff. Quindi super bonus, visto che si intravede la luce, la Royal Bank of Scotland si ridistribuisce, nonostante perda 7 miliardi di euro e sia stata salvata nel 2008 dai cittadini britannici. Complimenti anche a loro. Noi adesso invece andiamo al primo tema, e cioè l'attenzione / tensione con cui guardiamo a quello che sta capitando negli Stati Uniti. Ossia, oggi, senza un accordo sulla riduzione del deficit, scatterà il cosiddetto sequester, ossia tagli automatici alla spesa pubblica americana per un totale di 85 miliardi di dollari quest'anno, e in prospettiva per 10 anni si arriverà a un complessivo di 1.200 miliardi di dollari. Eh sì, perché i tagli non faranno sprofondare l'economia americana, ma sono in grado di ridurre la sua crescita di 1,5%. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo commentato il dato sul PIL americano nel quarto trimestre, che era inferiore alle attese. Comunque l'America ha chiuso il 2012 con un più 2,2%. Tagli soprattutto che, se dovessero scattare in automatico, scatterebbero alla difesa, meno 46 miliardi di dollari. E invece però anche nel settore civile c'è il rischio che molti insegnanti e altri dipendenti pubblici americani, statunitensi, perdano il loro lavoro. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, da New York. Buonasera Mario. Buonasera, eccoci Sebastiano. Allora, stanno arrivando, facciamo questa domanda, è più facile secondo te trovare un governo in Italia o fare un accordo in America sul deficit? Beh, il muro contro muro, come dire, domina da ogni parte in ogni parte del mondo, quindi muro contro muro della politica. E lo sottolineo perché questa vicenda del deficit americano è una vicenda soprattutto politica, nel senso che l'accordo sul taglio di circa 1.000 miliardi di dollari è un accordo su cui sia democratici che repubblicani hanno trovato un'intesa. Il problema è come tagliare questi 1.000 miliardi e devo dire che sia repubblicani che democratici guardano già alle elezioni del 2016, alle elezioni per il rinnovo della Camera e per un terzo del Senato. I repubblicani vogliono vendicarsi della sconfitta a novembre e quindi la domanda di fondo qual è? Chi resterà col cerino in mano? Cioè questi tagli automatici indiscriminati porteranno come dire, un danno diretto materiale alla popolazione, ai cittadini americani, alla popolazione americana. E quindi ci saranno a un certo punto, non immediatamente, ma a un certo punto ci saranno delle reazioni, quando non ci saranno più soldi per gli insegnanti, quando non ci saranno più soldi per gli ispettori per la sicurezza negli aeroporti, quindi quando ci saranno ritardi nei voli e così via, così via. Cioè ci sono una gran quantità di spese che provocheranno un danno diretto per la gente comune. A quel punto l'opinione pubblica americana dovrà decidere, ma di chi è la colpa? È di Obama o dei repubblicani? Ciascuno crede che potrà buttare la colpa sull'altro e avvantaggiarsi alle elezioni, ma la cosa interessante e curiosa è che davanti a questi tagli automatici che in teoria dovevano essere un incubo per l'economia americana, la borsa sta reagendo al rialzo, perché ieri ha chiuso, quando si è capito che non ci sarebbe stato accordo, ha chiuso con l'1,5% in più il Dow Jones. E perché? Beh, perché tutto sommato Wall Street è soddisfatta dal fatto che ci siano questi tagli automatici, perché significa che si taglieranno delle spese, che si ridurrà il ruolo del governo, dello Stato nell'economia americana, e anche se ci saranno più disoccupati, si parla addirittura di 300.000 disoccupati che potrebbero emergere da questi tagli di spesa, vuol dire che questo avrà un effetto di calmiere dei prezzi sui salari. Quindi ci sono una serie di considerazioni che vanno al di là della superficie che ho trovato insomma molto molto interessanti. Senti una cosa Mario, però tu giustamente ricordavi come il tema è tutto politico, di tattica politica, non di accordo sulla cifra, però il tempo è scaduto, nel senso che a questo punto o si mettono d'accordo, ho capito il ragionamento, cercheranno poi magari di dare la colpa Obama ai repubblicani e al congresso e il congresso a Obama, però alla fine rischiano di rimanere tutti e due col cerino in mano, o no? Cioè se partono questi tagli poi è difficile andare indietro. Sì, no, infatti, allora lo scenario è il seguente: i tagli partono e partiranno adesso, l'impatto sull'economia americana in realtà secondo le ultimissime stime sarà un impatto dello 0,5%, quindi più contenuto delle stime originarie dell'1,5%. E soprattutto Obama, che sta così suonando un po' la gran cassa del pericolo per i cittadini americani, perché poi da un punto di vista economico l'impatto non dovrebbe essere durissimo, sarà un impatto graduale. Se fra qualche mese ci saranno delle complicazioni reali e si capirà che il balance politico, diciamo, si muove più da una parte che dall'altra, allora è possibile che alla fine si mettano d'accordo e trovano un accordo. Quindi il mercato, devo dire, sta prendendo questo sviluppo in modo più saggio e meno nevrotico di quello che ci avrebbe potuto suggerire, diciamo, il preambolo di questa partita politica. Beh, vediamo perché appunto ho visto che comunque le agenzie di rating, Fitch nel caso specifico, ha detto che non rivedrà il voto degli Stati Uniti anche se oggi dovessero scattare in automatico i tagli alla spesa pubblica, per cui da quel punto di vista non vi dovrebbe essere un contraccolpo, come tu ricordavi però sul fronte occupazionale degli investimenti ci potrebbe essere anche pesante. Io vorrei salutarti, visto che stavo criticando quello che ha fatto la Royal Bank of Scotland, che nonostante chiuda in perdita si è distribuita 600 milioni di euro di super bonus. Vorrei farti ascoltare, così chiudiamo, non dico in allegria perché è difficile in questo periodo, ma in maniera un po' faceta, il botta e risposta tra un analista, nel caso specifico del Crédit Agricole, Mike Mayo, e il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, uno che secondo me ha delle enormi responsabilità, non fosse altro perché guida la banca da tantissimo tempo, per quello che è successo nel 2008, e guadagna 20 milioni di dollari l'anno. Anche questo, secondo me, andrebbe rivisto. Comunque, chi se ne frega in questo momento. Maio, durante un incontro con gli analisti, chiede a Diamond, al numero uno appunto di JP Morgan, se è d'accordo con quanto sostiene una presentazione di un'altra banca, UBS, per cui un cliente dovrebbe sentirsi più sicuro investendo i suoi soldi in una banca con requisiti più severi, cioè in una banca europea, perché hanno requisiti di patrimonializzazione più severi rispetto alle banche americane. Diamond gli dice: ma lei quindi sceglierebbe UBS e non JP Morgan? L'altro dice sì, e Diamond gli risponde: sapete come? È per questo che io guadagno e sono più ricco di lei. Sentiamo un passaggio. I think what I hear UBS saying in their presentations is if I'm an affluent customer, I'll feel a lot better going to UBS if they have a 13% capital ratio than another big bank with a 10% ratio. Do you agree with that or disagree? So you would go to UBS and not JP Morgan? I didn't say that. I said that's their argument. That's why I'm richer than you. L'avidità. Non trovo una parola migliore. È valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Allora, insomma, a parte che rispondere il motivo per cui io sono più ricco di lei non mi sembra una gran risposta, ma Mario Platero, tu che ci vivi con gli dèi dell'Olimpo di Wall Street, un po' caduti, ma stanno tornando con l'arroganza di prima del 2008? Stanno tornando con i vecchi vizi? Ma guarda, io come sai mi trovo un po' in disaccordo con te su queste cose. Lo so. Cioè, non ritengo, cioè forse in Europa e in Italia si è un po' drammatizzato quello che è successo qua. Intanto Jamie Dimon ha pagato in prima persona con un fortissimo taglio del suo stipendio, ha preso il 50% in meno rispetto a quello che avrebbe dovuto e rispetto a quello che ha preso l'anno scorso per le perdite della Balena Bianca, no? Che sono stati a Londra, quindi ha avuto un grosso taglio del suo bonus. Le perdite che hanno fatto in quell'operazione sono state recuperate con i profitti del secondo trimestre, cioè in realtà JP Morgan come banca sta andando molto molto bene. Sì, ci sono dei problemi, restano diciamo degli atteggiamenti speculativi che a volte sono pericolosi, ma credo che le banche americane abbiano fatto grossi progressi dal punto di vista della capitalizzazione, cioè in questi anni in cui i tassi di interesse erano molto bassi sono riuscite a riportarsi in una posizione di capitale molto solida. D'altra parte, sai, UBS, non capisco perché questa analista fa riferimenti, perché come ricorderai UBS a sua volta ha perso una gran quantità di soldi in un'operazione speculativa che non era riuscita a controllare e dopodiché hanno dovuto togliere anche i bonus un po' a tutti. I bonus sono inferiori in genere, però come dire, il profitto resta un po' l'anima del commercio, il commercio è tutto, il commercio in finanza, così come guadagni e diventi miliardario vendendo un computer su cui riesci a trovare una nuova formula, se riesci a fare buoni nel settore finanziario, quelli guadagnano. No, ci mancherebbe. No, mi sembrava un po' di essere tornato nell'atteggiamento, nella risposta di Diamond a quell'arroganza che contraddistingueva molti dei banchieri, dei bankers, finché non è scoppiato tutto, sembrava sempre di parlare con dei semiguru, invece poi nemmeno loro avevano capito, erano più apprendisti stregoni dopo quello che è successo che semiguru. No, ma per carità, sul paragone UBS JP Morgan non entro e ci mancherebbe. Grazie Mario Platero in collegamento con noi da New York. Grazie a voi. Vabbè. Comunque, solidarietà al compagno Jamie Dimon che si è tagliato lo stipendio da 40 milioni di dollari l'anno a 20 milioni di dollari l'anno. Faccio solo notare, per evitare polemiche sciocche, che le prime 100 società in America, ogni tanto vale la pena ricordarselo, le prime 100 corporate americane negli anni 70, nel 74, vedevano un rapporto tra stipendio medio del dipendente e stipendio del top manager che era 1 a 74, cioè se il dipendente guadagnava $1,000 in media, il top manager guadagnava $74,000 al mese in media. Il rapporto nel 2007, cioè l'anno prima che scoppi la crisi, era passato a 1 a 234, quindi per 1000 euro di stipendio medio il top manager in media guadagnava 234 mila dollari. Ora, solo nell'industria finanziaria, nell'industria normale, manifatturiera, nei servizi non si è avuto questo aumento della divaricazione. Ora, non mi sembra che i manager, diciamo, degli anni 70 valessero un terzo, tre volte meno i manager del 2007, visto poi il casino che è scoppiato nella finanza di matrice anglosassone. ...17.43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso facciamo la borsa e poi invece parliamo anche di un settore che, nonostante le difficoltà, sta tenendo bene, partecipa anche con un contributo molto forte al buon andamento della nostra bilancia commerciale, il settore in cui siamo leader a livello mondiale, uno dei tanti devo dire, ossia occhiali da sole, montature per occhiali, 2 miliardi e 800 milioni, di cui 2 miliardi e 200 milioni esportati ogni anno. Però prima la borsa, devo dare una precisazione, perché leggendo i dati di oggi dell'Istat sul 2012, la fotografia complessiva, ho ricordato come la spesa pubblica sia aumentata anche nel 2012, ed è verissimo, perché l'Istat su questo è molto netta, più 0,6% nel 2012, a dimostrazione che poi molti dipendenti pubblici mi hanno scritto dicendo però che non è dovuto all'aumento degli stipendi. È vero, gli stipendi nella pubblica amministrazione sono bloccati, è dovuto a spese, a consulenze, a spese per approvvigionamenti vari, all'incapacità di fare una spending review, di centralizzare le spese, di rendere più efficienti, non certo agli stipendi. No, questo lo dico perché nello stesso anno, cioè l'anno scorso, i redditi da lavoro sono diminuiti del 2,3%. Non ho mai detto che fosse colpa degli stipendi. Tra l'altro, diciamo, una spesa pubblica che va a aumentare gli stipendi, non so come dire, ma potremmo quasi classificarla forse nella spesa buona, se gli stipendi poi se agli stipendi corrisponde un servizio, un'efficienza, una produttività, perché aumentano un po' di potere d'acquisto. La spesa per consulenze inutili come quelle che raccontiamo ogni giorno è spesa cattiva ed è deficit cattivo. Comunque la borsa. Allora, giornata negativa oggi a Milano, peggio che altre borse, un punto percentuale in più, meno 1,5%, mentre Parigi meno 0,6%, DAX, quindi Francoforte meno 0,43%, Londra più 0,30%, l'America leggermente negativa meno 0,12%. Poco fa leggo assieme a voi l'agenzia di rating, una delle tre, quella che danno i voti ai governi, non solo, Fitch, ha appena dichiarato che lo scenario di instabilità politica dell'Italia pesa sui rating, sul voto del paese. Allora, la borsa, come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, vediamo se si muoveranno le agenzie di rating. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, un po' di tensioni sull'America di cui abbiamo parlato, oggi in particolar modo negativi vari titoli. Partiamo dal più clamoroso, Mediaset, che perde l'8% del peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Sì, come dicevi tu, il principale scenario di incertezza è quello che proviene dagli Stati Uniti, ma ci sono stati anche dei dati macroeconomici in mattinata sia della Cina che dell'Eurozona negativi, quindi è questo che ha un po' fatto partire le sedute col piede sbagliato. Per quanto riguarda Piazza Affari, appunto, la peggiore del FTSE MIB è stata media, è stato titolo sotto i riflettori in questi giorni innanzitutto per le vicende della politica. Oggi inoltre è arrivata la richiesta della Procura Generale di Milano di condannare Fedele Confalonieri, che è il presidente di Mediaset, a 3 anni e 4 mesi di reclusione per la vicenda della compravendita dei diritti TV da parte del gruppo televisivo, una notizia ovviamente che comunque negativa. Confalonieri appunto è il presidente di Mediaset, oggi è complice questa notizia, il titolo è stato il più venduto tra le blue chip, ha perso appunto l'8,01%. Di Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la borsa. Allora, Paolo Paronetto, dicevamo di Mediaset e abbiamo capito il peggior titolo. Oggi però, peggior titolo tra quelli e maggiore capitalizzazione. Oggi però vanno male tutte le banche e qui lo spread com'è? Perché lo spread è chiuso? È chiuso in rialzo di 10 punti base a 338 punti base. 338, quindi sì, sotto i 350 punti, mm-hmm, però insomma sempre il livello di guardia. Oltre a Mediaset che ha perso l'8%, c'è Finmeccanica che ha perso il 4,70 a 3,59 euro. Sì, in questo caso diciamo che non c'è un motivo specifico, sono molti titoli che scendono legati appunto alla Vischio Italia, di cui hai parlato anche tu riguardo all'annuncio di Fitch in apertura di collegamento. E comunque oggi appunto le vendite hanno colpito quasi tutti i principali titoli, sia quelli bancari sia quelli industriali, con alcune eccezioni che sono dovute a degli elementi specifici, ma appunto Finmeccanica ha perso il 4,7, anche a 2A il 4,3 e così è nel Green Power e via tutti gli altri, Pirelli 3,7, quindi diciamo che in questo caso il calo dei titoli industriali è legato proprio al loro rapporto con l'economia italiana, la situazione italiana che viene guardata con circospezione in questa fase dai mercati. Tra 10 minuti usciranno i dati sulle immatricolazioni auto per quello che riguarda l'Italia. Fiat comunque oggi si è già mossa, meno 2,34% a 4 euro per azione. Ha perso il 2,34, sì, diciamo che in attesa dei dati degli ultimi mesi sono stati abbastanza negativi per tutto il mercato, ma anche per Fiat, quindi in attesa della pubblicazione di questi nuovi dati alcuni investitori hanno preferito alleggerire le posizioni in attesa di capire se ci dovesse essere una sorpresa positiva, naturalmente tornavano sul titolo, altrimenti si sono messi al riparo da un eventuale nuovo calo domani. Fiat ha perso il 2,34 facendo un po' peggio del listino, ha fatto ancora peggio Fiat Industrial che ha perso il 4,13. L'amministratore delegato Marchion ha ribadito che non prevede di quotare Chrysler perché questo complicherebbe la strada di un'integrazione, una decisione, una posizione che viene condivisa dagli analisti di mercato che infatti vedono più sinergie proprio da una integrazione diretta di Fiat e Chrysler senza passare per una quotazione della controllata statunitense. Sui titoli diamo anche qualche titolo positivo, visto che non ce la facciamo, lo dico subito, già ritiro quello che ho detto, a parlare oggi del salone dell'occhialeria, però lo faremo lunedì, prometto, con gli ottimi numeri sull'export che ha registrato. Luxottica però più 1,74%, conti 2012 ma anche le prospettive 2013 per il gruppo di Del Vecchio. Esattamente, ieri sera ha mercato chiuso conti 2012 sopra le attese con un utile al netto delle voci non ricorrenti in rialzo del 24,4% a 567 milioni e inoltre l'amministratore delegato Andrea Guerra ha parlato di un 2013 che è partito in modo positivo e ha detto di guardare con fiducia i prossimi mesi, quindi conti buoni, prospettive e positive, naturalmente gli investitori hanno apprezzato, il titolo ha guadagnato l'1,74%. Oggi il miglior titolo è Parmalat più 3%, ma questa volta non c'è effetto Danone come la settimana scorsa, ma? No, questa è la vicenda della procura di Parma che ha chiesto la revoca del CDA della società in seguito all'acquisizione di Lactalis USA, la controllata americana del gruppo Lactalis che è la controllante di Parmalat. La procura ha chiesto l'arrivo di un commissario per 4 o 5 mesi per annullare questa acquisizione che secondo alcuni è stata usata solo per drenare di fatto la cassa di Parmalat, e il mercato inizia a speculare di nuovo sul fatto che Lactalis, proprio per evitare questi riflettori, un livello troppo elevato di attenzione, possa ripensarci e decidere di delistare il titolo Parmalat, quindi lanciando un'oppa sul restante capitale della società. Questa è la scommessa del mercato, ovviamente una scommessa speculativa che non ci sono alcune indicazioni ufficiali in tal senso, oggi ha spinto il titolo in rialzo di oltre il 3%. Allora, tra chi è positivo oggi? Anche Prysmian, l'ex Pirelli Cavi. È un po' che il titolo va bene, più 0,70%, ma comunque in progresso quasi costante. Sì, i conti sono stati resi noti in questo caso, i conti 2012 mercoledì scorso, è da allora che il titolo viene premiato dal mercato, anche perché dopo i conti sono arrivate le promozioni da parte di molte banche d'affari. Oggi è arrivato inoltre un altro contratto vinto dal gruppo di oltre 50 milioni di euro, un contratto in Germania legato alle energie rinnovabili, in particolare alle energie eoliche. Ovviamente gli investitori hanno premiato il titolo più 0,66%. Ancora andiamo avanti con i bancari, non li ho detti, mi fate notare, avete ragione, come quasi sempre. Allora, Unicredit meno 1,90%, Monte dei Paschi meno 2,30%, Popolare Milano meno 2,5%, Banco Popolare meno 3,5%, Mediobanca meno 3,5%. Male oggi anche Pirelli meno 3,70% e Fiat Industrial, quindi non solo Fiat Auto ma anche Industrial, che vuol dire camion e trattori, meno 4,1%, anche Enel Green Power soffre meno 4,1%. Tra le banche chi ha perso meno? UbiBanca meno 1% e Intesa San Paolo, che ha chiuso quasi invariata meno 0,16%. In assoluto migliori e peggiori sono Mediaset. A Mediaset è in assoluto il peggior titolo oggi, scusami, non me ne ero accorto. Mentre il miglior titolo è Telecom Italia Media sul risparmio, più 11%. Poi AXA più 8,30 e ERG più 4,50. Su Telecom Italia Media ci sono anche novità, no? Mi sembra per... Sì, certo, i titoli ordinari hanno fatto un meno 1,29%, sì. Anche se nel corso della seduta sono arrivati a guadagnare anche il 5%. Diciamo che non si è chiusa al momento la vendita di La Sette a Urbano Cairo, anche se la società ha fatto sapere che il processo di vendita va avanti e dovrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni prima del prossimo CDA, però nel frattempo si inizia a pensare che potrebbe tornare in corsa altri pretendenti. Ieri sera il fondo Clessidra ha inviato una nuova offerta, secondo quanto riportato da Sole 24 Ore è sceso in campo anche l'editore Guido Veneziani e si parla sempre anche di un possibile coinvolgimento di Diego Della Valle, magari proprio insieme al fondo Clessidra. Quindi, in attesa di capire se davvero si chiuderà con Cairo, cosa che sembra sempre la più probabile, il mercato inizia a posizionarsi in caso si dovesse riaprire tutta la partita. Alle 18:09 riprende Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, il commento di quello che sta capitando sia sul fronte politico e quindi economico, ma anche sui dati che ricordavo in apertura, al di là della fotografia dell'Istat sul 2012, ormai siamo in pieno 2013 e oggi è arrivata la prima doccia fredda. La disoccupazione nell'area euro è a un nuovo record storico. Questo lo dico così parliamo delle politiche di quest'ultimo anno e mezzo, le politiche europee, vediamo gli effetti, no? Al 12% praticamente la disoccupazione giovanile è record storico nell'area euro, però è una media di trilussa quella dei polli. Perché? Perché la Germania ce l'ha al 5,3 come disoccupazione, in questo caso non giovanile, complessiva, l'Olanda al 6%, la Francia al 10%, l'Italia all'11,7, la Spagna al 26, la Grecia al 27. La media della disoccupazione in Europa è al 12%. Se poi andiamo sulla disoccupazione giovanile, si va di record in record, ahimè, perché pensate che l'Italia ha toccato a gennaio 2013 il 38,7% di disoccupati, cioè di giovani senza lavoro, quasi 39 su 100. Ok? Siamo il paese messo peggio dopo la Spagna, dove sono al 55%, cioè 55 giovani su 100 non hanno un lavoro, e la Grecia 60%. Gli studenti non vengono considerati disoccupati, perché disoccupato, lo dico già a chi scrive, è chi cerca un lavoro e non lo sta trovando, non chi sta studiando. Quindi parliamo di chi sta cercando un lavoro nell'età 16-24 e non l'ha trovato. In Grecia siamo al 60%, media di trilussa. Perché? Perché in Germania siamo all'8%, in Olanda al 10%, la Francia invece ha dati preoccupanti, più vicini a Italia e Spagna, 28% di disoccupati tra i giovani. E allora, anche perché molto evocato da alcuni ascoltatori, parliamo di questo, del tunnel della politica italiana in questo momento, del rischio contagio, del che fare, con un uccellaccio che in questi giorni vola di nuovo sopra le nostre teste. Eh sì, molto evocato dopo le elezioni dagli ascoltatori, mi fa piacere, perché questo uccellaccio che ogni tanto chiamiamo è quanto mai opportuno in questo momento di mala tempora. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera, sono qui per rischiadarvi. Oh, beh, meno male, un uccellaccio che... menti, naturalmente. Un uccellaccio che ci rasserena, la dice lunga sul periodo. Allora, lei insegna, lo ricordo a tutti, storia economica all'Università Statale di Milano e è autore di un libro, In tempi non sospetti, devo dire, L'inverno di Monti, il bisogno della politica, che diventa quasi profetico. Forse Monti pensava ci fosse un altro bisogno di politica. Ma insomma, andiamo con i dati di oggi che ricordavo prima. Disoccupazione giovanile in Spagna, Italia e in Grecia ai massimi nell'Unione Europea, il 38,7% dei giovani senza lavoro. Certo. In Italia è il paese più colpito dopo la Spagna, siamo a uno su due, più di uno su due in Spagna, il 55%, e la Grecia al 60%. Uh-huh. Pensate che un anno fa in Italia era più bassa di 6 punti percentuali. Se sommiamo a questo il dato diffuso inizio settimana dall'Istat, cioè che nel 2012 vi sono stati 620.000 licenziamenti, non si tratta di disoccupati. E ancora quello che ha dichiarato oggi sia il portavoce europeo al lavoro: la disoccupazione in Europa sta toccando livelli sempre più inaccettabili, che il presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto da Berlino ormai in Europa c'è una grave questione sociale. Le chiedo, il contagio, è la domanda che ponevamo ieri a Alessandro Plateroti e anche a Giacomo Vacciago, il contagio di cui temono tutti in Europa, il contagio italiano, è un contagio economico oppure la Banca Centrale Europea comunque garantisce con il suo scudo sul debito e sull'euro, oppure è un contagio politico, e cioè l'Italia sta come laboratorio, ancor più della Grecia, mostrando gli effetti che poi a livello politico possono avere politiche, mi scusi il gioco di parole, solo di austerità e senza sbocco? Allora, per quanto riguarda la prima questione, mi pare evidente, l'ha già risposto Vacciago e anche Plateroti, naturalmente finché Mario Draghi fa buona guardia e aggira la Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca, attraverso delle invenzioni molto originali, giuridico-amministrative, per consentire alla BCE, nonostante il suo statuto, di riversare liquidità, per ora devo dire però solo sui debiti sovrani, cioè sui titoli di Stato e sui titoli delle banche, siamo relativamente sicuri. Devo dire che lo siamo però, come già lei ha detto, molto meno sul fronte della questione sociale, perché la liquidità, a differenza di quello che capita negli USA, non arriva all'economia reale ma si ferma all'economia finanziaria o all'economia pubblica subspecie di finanza pubblica. Per quanto riguarda il contagio politico, se posso continuare, mi sembra una, voglio dire, sono frasi effetto, insomma, che ormai un tempo erano proprie solo dei giornalisti, e va bene, ma che anche gli studiosi cedono a queste frasi effetto è disarmante per noi che guardiamo dall'alto dell'apocalisse, voi umani. E devo dire che il contagio politico non viene dall'Italia, amico mio, perché guardiamo bene Grillo. Grillo dice ai disperati, a coloro che tirano su la Clair non sapendo se ci sarà un domani, per la politica deflattiva del signor Monti e dei suoi accoliti, che una possibile soluzione è di andare in Parlamento nei comuni. Io ho i capelli bianchi, 20 anni fa c'erano dei signorini, che adesso si sono tutti ben sistemati, che dicevano invece ai disperati di prendere la pistola e di uccidere. Giusto? È vero che è crollata l'Unione Sovietica, è vero che ci sono anche situazioni internazionali di contorno che rendono il terrorismo meno interessante dal punto di vista della politica di potenza, ma Grillo in fondo è un ammortizzatore sociale. Mi auguro che paesi che sono sull'orlo della disgregazione sociale, come la Spagna, il Portogallo, e i tedeschi, anche loro non stanno molto attenti, perché chiunque va in Germania vede che grazie alle riforme del tanto proclamato Schröder la Germania è stata divisa in due, perché comincia ad esserci un terzo della classe operaia, degli operai, che guadagnano meno che i greci e i portoghesi grazie alle riforme Schröder, e quindi lì c'è un forte sindacato che quindi controlla le masse, quindi, ecco, però contagio da noi non ne viene. Anche perché gli operai della grande azienda da cui poteva partire un moto di rivolta li hanno già massacrati tutti con la paura di licenziamenti di massa. Il ceto medio per sua natura può fare azioni di rivolta individuali, i commercianti e gli artigiani hanno tanto da preoccuparsi per le loro imprese che è difficile che la loro protesta non sia qualcosa di molto relativo alle istituzioni, al voto, appunto, al fenomeno Grillo. Quindi queste cose sul contagio politico dell'Italia sono bazzecole. Beh, lei fa notare quanto facevano notare anche i nostri ospiti ieri, e cioè che paradossalmente il Movimento 5 Stelle, lo dico perché parlare di economia significa anche parlare purtroppo in questo periodo di disagio fortissimo sociale, dicevo, il Movimento 5 Stelle ha incamerato in maniera e convogliato in maniera democratica, e quindi in Parlamento, nei comuni, una protesta che in altri paesi abbiamo visto, penso alla Spagna, ma penso anche alla Francia, se non trova uno sbocco democratico rischia poi di trasferirsi direttamente nelle piazze con tutti i rischi a cui lei accennava. Per cui meglio sempre un partito di protesta e antisistema, anti questo sistema in Parlamento, che non le stesse persone in piazza, sì, perché non trovano un partito. Ho capito bene, sì, il suo ragionamento? Sì, mi permetta, dottor Barisoni, che sia antisistema è ancora da vedere. No, no, infatti forse era un po' forte. Contro questo sistema della politica, diciamo. Ah sì, vabbè, ma il sistema della politica è una superfettazione del potere reale nella società. Quindi voglio dire, l'unica cosa interessante del problema di Grillo è che proclama la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, lo sviluppo di cooperative, i beni comuni. Questa è la cosa che a me francamente interessa, perché c'è segmenti di superamento di un vetero capitalismo di cui ormai siamo veramente tuffi, insomma, almeno le persone che pensano che la disoccupazione sia un male sociale. Chi lo ritiene un fatto di mercato, vabbè, allora si può accomodare. ...18:20, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ospite, ricordo, il professor Giulio Sapelli. Dunque, Sapelli, proprio ieri con i nostri ospiti dicevamo, attenzione, perché storicamente con la pancia vuota, quindi disoccupazione, dato di oggi drammatico su quella giovanile in Europa e record comunque in media di quella europea, dicevo, con la pancia vuota si votano gli estremi, con la pancia piena si usa più la testa, questo storicamente. Allora, da un punto di vista economico, però, noi in questo momento siamo gli osservati speciali, non ci sono ancora grosse tensioni sullo spread, oggi a 338 e su altro, però la Germania ha fatto delle cappelle, degli scivoloni enormi, sia il ministro alle finanze, il Falco Schäuble, che parla di contagio, sia il leader dell'SPD sui clown. E possiamo ancora in questo momento dire fatevi i fatti vostri, facciamo anche la battuta che quando venne eletto Ronald Reagan nessuno in Germania disse hanno eletto un attore western alla Casa Bianca, no? Però non possiamo, e possiamo dire non permettetevi di darci dei buffoni, visto che sono due leader politici, Berlusconi e Grillo, democraticamente eletti. Però prima o poi una risposta a questa Europa bisognerà darla. Ora, non mi sembra che alla luce di questa della cronaca di oggi, Grillo che accusa Bersani di fare compravendita, Renzi che risponde a Grillo, non mi sembra che ci sia una convergenza. Lei che idea si è fatta, insomma, arriveremo a un punto, a un governo istituzionale, a un punto di caduta? Ma io spero che questi avanzi di Bersani e Grillo siano da un lato un tentativo coraggioso e nobile di trovare un accordo e di placare le anime, cioè trovare un percorso di costituzionalizzazione piena di Grillo. Mi auguro però anche che l'onorevole Bersani abbia una via di uscita, diciamo, e abbia parlato già con il PDL e con Berlusconi, garantendosi che se Grillo non gli vota la fiducia, Berlusconi, e credo che Berlusconi sia intenzionato a farlo, spero che Berlusconi voglia farlo, darà lui la fiducia che Grillo non dà. E poi bisogna, insomma, perché l'onorevole Bersani lo sa benissimo, bisogna avere un governo istituzionale. Lì non, diciamo, il modello siciliano non ha nessun senso, perché il governatore della Sicilia è eletto dal popolo, non ha bisogno di nessuna fiducia. Qui bisogna andare in Senato ad accogliere la fiducia. Spero che ci sia stata una politica dei due tempi e che quindi questo rapporto così bizzarro con Grillo, perché mi stupisce che un grande capo, un politico capo di un grande partito, prima di interpellare un altro interlocutore, fosse anche Grillo, non si sia accordato con lui prima. Guardi, mi scusi, ma diciamo, la politica è fatta di diversi livelli, non quello che appare alle masse, ecco, insomma, finché da quanto è mondo si tratta prima segretamente e poi si va allo scoperto, ecco. Ho l'impressione che adesso si siano dimenticati anche questi elementari regole del fare politica, ecco, anche l'onorevole Bersani. Spero che non sia così, spero che abbia parlato con Grillo prima segretamente, perché se non l'ha fatto, ecco, non rimane che la soluzione che le ho detto, insomma. Ma non sarebbe comunque una soluzione per fare alcune riforme, rassicurare l'Europa? C'è un Consiglio europeo il 15 marzo in cui dobbiamo mandare un Presidente del Consiglio, per carità, abbia può pazienza, ancora andare Monti, però insomma, abbia pazienza Barisoni. Abbiamo avuto il Belgio che è stato 2 anni senza governo, abbiamo avuto paesi anche nordici che sono andati ai consigli con dei governi. Ecco, non diamoci sempre la croce addosso. Siamo un grande paese, facciamo parte dei G8, l'Europa benissimo, ci stiamo dentro, ma bisognerebbe avere un po' la schiena dritta di dire all'Europa che ci stiamo come vogliamo anche noi. Quindi questo l'Europa, l'Europa, se mi permette, noi dalle alte vette apocalittiche, devo dire, diamo un messaggio che bisogna stropicciarsene anche un po' e pensare al proprio paese, negoziando in Europa la riforma di questa maledetta Banca Centrale Europea, eccetera, eccetera, eccetera, di cambiare il trattato di Maastricht, tutte cose che chiunque vada al governo oggi, a meno che non sia come il signor Monti, accecato da una sorta di fedeltà ai miti dell'austerità che ci hanno distrutto. Non pensi di fare, ma ecco, comunque pensa di dirino un po' sulla schiena questi qui. Oh, quindi stropicciarsi, non voglio sapere cosa lei dice, uno può anche fregarsi un po' di... No, ma cosa mi... Ma no, scusa. No, è lei che... Lei non deve interpretare le mie cose. No, certo, ci mancherebbe, ma anche perché lei volando in alto, meglio che non si stropicci, mettiamola così. Ecco, no, però Sapelli, mi scusi, tornando a essere seri, lei dice... Era riferito a me. Appunto. Però, dico... Lei dice, attenzione, andare in Europa con la schiena più dritta, pensare al primum vivere, cioè la sopravvivenza poi del paese, del modello democratico e quant'altro, e chiedere a questo punto che si cambiano le politiche. Io lo dico modestamente, è un tasto su cui battiamo da un anno e mezzo, da quando abbiamo visto come la Germania... No, abbia pazienza. No, mi dica. Declamiamo, ma non siamo stati capaci... No, battiamo in questo programma, mi riferivo banalmente al programma, visto che è un anno e mezzo che diciamo... Dopo il modo in cui... con lei, ma però non l'ha ascoltato nessuno. No, vabbè, questo fa parte fare della vita. Questo bisogna andare a parlare con Hollande, non solo al telefono, negoziare, mettersi d'accordo, anche chi sta all'opposizione o chi stava, voglio dire, bisogna parlare con i eventuali partner europei, ecco. Ecco, non si fa questo. Su questo vorrei arrivare al punto di un punto di caduta. E cioè, per carità, no, di caduta no, per lei no, andiamo avanti, però no, di caduta no, ha ragione, un punto di conclusione o di proposta, ecco, grazie. Perché, mi scusi Sapelli, andare in Europa per battere i pugni, da tirare su la schiena, siamo tutti d'accordo, ripeto, noi da come abbiamo visto la Germania trattare e gestire la crisi greca abbiamo capito che quella era un modello sbagliato, però è inutile andare avanti col senno o con il l'avevamo detto. Per chiedere che cosa, Sapelli? Perché, per esempio, c'è chi dice, iniziamo a ragionare che il deficit è... c'è un deficit buono e un deficit cattivo. Il deficit cattivo, lo spiego a tutti, è quello degli sprechi della pubblica amministrazione, della pletora di funzionari, del malutilizzo dei soldi pubblici. Il deficit buono è quello che tu fai se investi in formazione, in infrastrutture, se defiscalizzi un po', riduci le tasse in busta paga. Ecco. Che cosa chiediamo all'Europa però una volta che drizziamo la schiena? Ma l'ha già detto lei, amico mio. Chiediamo naturalmente, uno, bisogna riformare la banca centrale subito. E poi bisogna cominciare una politica di investimenti pubblici coordinati tra i vari paesi europei, certo. Il vecchio modello che avevano i padri costituenti. Cosa fecero? Crearono la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Crearono l'Euratom, ente atomico europeo. Bisogna cominciare a fare una politica di investimenti europei, ecco, e bisogna sconfiggere la politica nazionalista e neoimperialista che ha la Germania. Bisogna metterla in minoranza e bisogna far capire che questo, bisogna utilizzare la pressione della sofferenza che sale dai popoli, se no questa sofferenza, con i dati sulla disoccupazione che lei ha testé ricordato, con la chiusura ogni giorno di decine di migliaia di imprese in Europa, che ci porterà a una situazione come Weimar. Perché insomma bisogna, ma non una Weimar tedesca, una Weimar europea, cioè una crisi, un crollo della democrazia. E allora ci saranno delle ceneri europee molto più terribili delle braci che ancora fiammeggiano oggi. Quindi bisogna che questi signori acquistino il principio di realtà. Sì, Sapelli, bene, dalle braci alle fiamme. Attento che la impallinano i cacciatori tedeschi se lei vola sopra la Germania, dopo quello che ha appena detto. No, no, però troppo alto per loro, per le loro bisogni. Quindi deficit buono, deficit cattivo, politiche di investimento congiunte a livello europeo, ripartire con politiche di investimento, sapendo che se tu investi, continuo sul tema, per qualcosa che crea e genera sviluppo, oltre che consumi, oltre che, tra virgolette, ricchezza, non stai creando un deficit cattivo, perché poi quello ti fa crescere il PIL, Sapelli, questo se lo sono dimenticati tutti. Certo, ma quando non c'erano delle università, che non dico, ma delle università vere, queste cose chi faceva economia glielo spiegavano. Oggi mi sembra che non glielo spieghino più. Sapelli, voli verso lidi più caldi, meno tormentati, meno nebulosi. Grazie a Giulio Sapelli, docente di storia. Lascio, dottor Barisoni. Mi lascia qui in una valle, insomma, difficile. In una valle di braci. Una valle di braci. Dove verrà la cenere, della cenere di monti. Addio. Arrivederci, Sapelli. Che miseria. Comunque la vogliate vedere, da Sebastiano Barisoni comunque l'augurio di un buon fine settimana, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi da lunedì alle 17 saremo qui di nuovo a raccontare una difficile uscita della politica da un tunnel, la politica europea, non solo la politica italiana. Buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.